E adesso un'altra canzone, sempre dei primi anni 60, un brano scritto da me, un brano dal titolo provvisorio di La mia dea, è un tentativo di blues, e nella seconda parte invece è reggae. È un brano che seguo sempre per la prima volta in pubblico, speriamo bene. Fare per distrarmi da te. No, no, no, non c'è nulla che io possa fare per distrarmi da te. La mia dea è una stronza che mi ronza in testa, che mi tormenta. È una catena di eventi nella mia vita, è un sottile tranello senza via di uscita, e intanto muoio. La mia dea per giunta non mi pensa, anzi le ha l'oscuro della mia esistenza, però mi ha. Solo vedesse quanto sono bello, alto indaffarato, colto magro e snello, ma lei è cieca. No, no, no, non c'è nulla che io possa fare per distrarmi da te. No, no, no, non c'è nulla che io possa fare per distrarmi da te. No, no, no, non c'è nulla che io possa fare per distrarmi da te. No, no, no, non c'è nulla che io possa fare per distrarmi da te. No, no, no, non c'è nulla che io possa fare per distrarmi da te. No, no, no, non c'è nulla che io possa fare per distrarmi da te. No, no, no, non c'è nulla che io possa fare per distrarmi da te. No, no, no, non c'è nulla che io possa fare per distrarmi da te. Grazie.